Attenzione con quel K, chi è? Come ho sempre detto io, è inutile, cioè si trova sempre punto a capo, diciamo aperto gli orati, tutto lì a tutti. No, ma bastava, cioè la discussione non si è neanche accesa, bastava andare su, di scalare di uno, dai, a posto di andare sul 40, sul 41 e avevamo risolto tutto, perché non si era fatta neanche la discussione. Sì, sì, effetti così. È importantista, niente, da non si può sapere il privato. È un capo di gatto che fa i nocchi in zona. Ecco. Avanti il break, buonasera. Buonasera a tutti, Marco da questa parte. Non è che avete sentito Luca in radio? Vivo Marco, non l'ho sentito per niente, adesso ti do un falchetto. Avanti Falchetto. Papà, buonasera Marco, Scorpio, mi hai sentito? No, no, io avevo acceso, siamo 5-10 minuti. Oh. No, non ho sentito, ma Luca Lugariello dici? Papà, casomai di telefono perché sono stato trattenuto che c'era una visita a casa e non potevo contattarlo prima, ma casomai di telefono vediamo se non è troppo tardi perché un pochino l'ora. Va bene Marco, dai, non ci sono problemi, parlo basso, magari sono a casa, va bene, ok. Vai a tu. Sì, a scappa Marco, dai. E dove sei? In giro con la BM? Ho appena acceso, ho messo l'apparato in macchina. Piuttosto, come mi ascoltate con questo apparato? 123, 123, 123, Alan 48. Benissimo. Sei Antero 7, Radio 5, non so come ti ascolti il falchetto. Positivo, dipende sempre la tua zona, Marco, di modulazione. Il mio è Santiago 9, non Radio 5. Papà, io sono in mezzo ai palazzi. Sono in mezzo ai palazzi zona Mater Ecclesia, però più in basso, diciamo, dai. Io vedo qua che ho dei picchi di modulazione, tant'è che si ammassa la luminosità. Non vi spiego, siccome ho preso questo apparecchio usato, ottimissime condizioni, no, ho messo l'inserzione. Già vedo che non è proprio originale. E qua vedo che come parlo si abbassa un po', idea che abbia avanti, infatti sto andando su a piazzare a dargli una rosmetrata, ma col vatometro do un'occhiata, vediamo com'è. È positivo, dai, provo a salire, dai un'occhiata e poi ti do la pompa, segnalo e segnale più preciso, diciamo. Riprendo dopo quando arrivo su, magari faccio una telefonata prima al diretto interessato, ok. 73 a tutti, a dopo. Ok, 73 anche a te, dai, a dopo. Ciao, ciao Marco. Ha disteso il Mau Mau. Lui è sempre malletto, lui come passa una mosca e abbaiava e basta. Così è, una mosca, pisciche. Capito, non lo fa passare nessuno che è subito avverte. Purtroppo così è tu. Ma a me deve essere vigile il cane che non si è dormito. Beh, giustamente, sì. Meglio, a Marco, vuol dire che fa la salute sul cane. Chiappa. Beh, ma volando sai, ce n'è o è tutto morto? Ma diciamo, ho ripreso una quindicina di giorni, ma dopo questo mi sa che torno appunto a capo. Torno a travaglio, poi potete essere graziate a candutarle in una condizione delizia per buone ne fate le sciluccia alle aziende, poi potete travaglio. E poi stanno proprio le palle, documenti a destra, documenti a sinistra, visita a sinistra, visita a destra, c'è tutto un casino, tu, veramente un casino sta diventando. Sì, sì, infatti non so se hai seguito Vigliorina, se lo segui la mattina, c'era un po' di gente incazzata, c'era un un sacco di questi imprenditori che hanno imprese, eccetera, eccetera. Cioè erano incazzati neri, perché dice, cazzo, vai a chiedere una concessione edilizia per fabbricare un palazzo, cazzo, ci vogliono mille pratiche, mille cose. Adesso so che il ministro sta facendo qualcosa per risolvere questa situazione, cioè stavo cercando di interpellare il ministro per vedere se riescono un pochettino a sbloccare questa cosa, per quello che non c'è lavoro, cazzo, non si riesce a fare più niente. Allora, è tutto macello, e purtroppo loro hanno anche le sue ragioni, perché ovviamente dicono, ma io non posso investire tanto di denaro per poi trovarmi qualcuno per terra, cioè alla fin fine neanche loro si fidano più a prendere operai, capito? Sì, ma anche loro sono in difficoltà, aziende, cazzo, che hanno anticipato soldi, cazzo, che sono di sotto di milioni di euro e non riescono manco a pagare tasse, non riescono a pagare un nulla, cioè sono in deficit con le banche, cazzo, loro sono in deficit, però cazzo non ripagano, cioè ma stiamo veramente ora toccando il fondo. Abbiamo proprio toccato il fondo. Tu pensi che adesso se vuoi un prestito non ti danno più il prestito, perché hanno un sacco di casini con le banche, hanno un sacco di problemi, vogliono un sacco di documentazione, di garanzie, di balla che lo corre. Disarmate tutti grandi. Ma porca miseria, ma se tu non hai garanzia di farmi lavorare io, e di darmi i soldi che mi spettano, soprattutto lavori di Stato, lavori regionali, tutto quanto. Cazzo, è un casino che non viene bene a dirlo. Se non mi dai i soldi miei, come cazzo faccio io ad andare avanti? Infatti, guarda, io te ne dico uno, ho fatto questa domanda per il sussidio che mi devono dare dei soldini alla regione, sono passati 4 mesi o 5 che siano e ancora non si è sentito una virgola nella regione, io parlo della regione. Sì, so che c'è un casino che non viene bene a dire. Cazzo, guarda, mi stanno mettendo anche in difficoltà, io lo so, stanno mettendo in difficoltà anche gli ambulanti, perché proprio per farci pagare, si stanno portando proprio, si stanno mettendo a culo a terra, manca la sanità, stanno a culo a terra, cazzo. Chi si vuole una grande entrata e prende un casino, di che non viene bene a dirlo. Meglio culo a terra che culo ai pippari. Caffa. E gare, Vittorio, tu sei? No, Marco sono. Ho detto meglio culo a terra che culo ai pippari. Tra poco tocca a fuori si furuisce, guarda. Se continua a essere un passo. Ah, che bello. E meno male che c'è qualcuno che la prende bene, meno male, perché guarda, se veramente a stare a quello che dicono le leggi, per carità di Dio, guarda, ce ne deve diventare pazzi. Cazzo, ma lo casino che sta succedendo, insomma, adesso fra un po' cadete le stangate che arrivano, mamma mia, bella, oh. Ui, avanti, va. Qua stavano passando pedoni e non mi posso distrarre, se non ne ha rotto qualcuno. Oh, ti trovi, Marco? Allora, a Ponte Nuovo sto andando da Lucca a consegnargli una commissione. Ah, certo. Quanto? È lavorativo. Stasera stiamo passando con la moto bicicletta e ho visto un attendo Vettura 2000, nella vettura, vabbè, non si può dire la vettura, comunque una vettura nuova. Sai dirmi di chi potrebbe essere? Ma tu lungo 2000. Non lo so, a Turbo 2001, a Turbo 2000 ce l'ho io, ma ce l'ho a casa, ce l'ho potete usando io dall'Assirio, a Turbo 2001, ma cos'è la macchina da che mi consegnava a bombole, no? No, negativo, mi correggo, sì, 2001, no, è una vettura nuova, proprio nuova di Parca, e assomiglia a quella di Mussolini più o meno. Mussolini? Ma che stai dicendo tu? Che macchina era? Una H per esempio. Ma non posso dire il nome della macchina, vai. Non ti posso dire il nome della macchina, ma ti posso dire che aveva un colore, che ti posso dire, un azzurro, chiaro, guarda cosa c'è. E vabbè, puoi dire la macchina, mi siamo, ti conosciamo tutti, me. Azzurro, azzurro, tipo Chiavetta. Ma un chiaro, un azzurro chiaro. Quelle macchine di Murillo le chiamano le macchine di Mussolini, ce ne sono parecchie nere, hai capito? Se ne intende, appunto, no. C'è un uomo strano, c'ha il culo di dietro molto alto, rimane tutta poi bassa davanti. È strana, è una macchina, non è macchina italiana, capito? Ah, la K dicendo. Una K. Ah. Ehi. Ah, negativo, molto più superiore alla K, capito? No, non è macchina, no, non è la K, non è la... Porca miseria, c'ha un nome strano, cavolo. Non so un nome che ce l'ha così. E vabbè, comunque, l'ho visto, basta, sono di passaggio, Poi, ma in verticale ti posso spiegare meglio. Capa, se invece mi vedi in verticale, forse già avete a comprendere, pare. E infatti, dai, in frequenza non va bene, non va bene, cioè non è che non vada bene perché debba nascondere la cosa, però non va bene, dai, magari vuole la sua privacy, è giusto che sia così, dai. Capa. Perché io ce l'ho piccola nella strada, hai capito? C'ho l'antennino piccolo, una base magnetica. No, questo c'era tutto attaccato alla capotta, 2001, capito? Non lo so chi è. Bisogna che me lo spieghi più accuratamente. Comunque, c'è lo strada bianco, non so se l'hai mai visto. Sì, sì, sì, no, io pensavo che fosse addirittura utilizzato, penso un po'. Può darsi, lo sai. Può darsi perché non so, perché ne ho visto una nera, però è un fuoristrada, diciamo, un gettone, là, non è che la genere è nera. Però questa non era nera, era un azzurro chiaro, tutto lì. No, non ce l'ha quella macchina, penso che non ne abbia di quella macchina. Quello che sta uscendo con una cosa, un Alfa Romeo anche attualmente. No, lui. Non è lui, non è lui, non è lui. Vabbè, comunque non ha importanza, se in caso dovesse rincrociarlo ci prendiamo un caffè così si conosce anche in verticale. Infatti, non è che sono lì io a fermarlo, a dire, non mi interessa niente. Se lui sta ascoltando le frequenze, se gli farà piacere, si presenterà lui tutto lì. Ragazza, vabbè, se non puoi, lo saprò. E allora, cazzo, siamo sempre punto a capo, vabbè. Porca miseria, a me guarda queste cose mi urtano veramente, no? Vabbè, già passa, dai, non è che... se l'è presa un po'. Cosa vuoi dire? problema. Io ho parlato che sono molto, molto stanco, 8 ore, 8 ore, 11, per carità di Dio, ma non te ne dico nulla. E cos'è? A che tramezzo ne era appena? No, proprio da Bisciuria, sul tetto. Ah, la frago Bisciuria, Allora. Mi sono fatto un matto tra, guarda, queste 15 giorni, bisogna tra ponteggio, fare ponteggio, smantellare i terrazzini, fare tette, compagnia bella, sono muertos. Dice, meglio che ci sia al lavoro. Meglio che ci sia, perché grazie a Dio è meglio che ci sia. Però tre parti, una 15 giorni, tre parti così è proprio da pazzi. Uno che è abituato, cioè, a travagliare già si stanca, ma alla fine non rifà di nulla. Sì, quello sì, quello è vero. Ma allora tu dai, io ti saluto, ti auguro un certo buono da quando lo fa, e saluto a te, quella familiare, dai, e ci si riascolta tra i migliori. Tu alle prossime, ciao Antonio. Ciao, Frank, ci sentiamo. Ciao. Non veste più nessuno qua. Avanti! Bomborino, tu solo ci sei rimasto. Via. Ci sono rimasto io. Cacchio, stasera non c'è nessuno. Ci sono vari giorni di vuoto. Ma arrivano fuori, perché sennò davvero mi stare tutte le sere in radio senza uscire è alienante. Io sono uscito, vabbè, perché devo fare la commissione, poi c'era c'è fresco. Ci sta veramente bene fuori. Cazzo, stavo pensando pure io. Ho un pochettino le palle piene, ne ho, perché... Perché rientro dal lavoro e cosa? Sinceramente ne ho le palle piene con questi malumori e cosa? Ma io sto ripartendo dalla mia posizione, vado a Piazza Lissini a fare, dare un'occhiata a questo apparato. Ah, va. E dà un'occhiata a Piazza Lissini, oltre che all'apparato. Adesso devo svoltare, vediamo qua dove cacchio si può svoltare. Eccolo qua. Sì, mi sta arrivando forte. Guarda, sono in via Gabriele D'Annunzio. Cazzo, la portiera aperta. Ma che c'hai, Lamborghini bella? Se la portiera destra aperta, lasciato, giù. Ah, perché ti sento così forte? Ma pausa se mi senti bene lì, a Monte Rosetto. Vediamo il segnale, sono tutto uscito a chiudere. Sono passati, sono attenuati. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Fare 8, anche a volte radio 5. Ma attenuato o normale? No, normale, ma per il capo lo sono a ridosso di un muro, sono lì. Dove sei? All'ingresso? Adesso stai salendo nella zona di su. Sì, un attimo, sono fermo, perché se parlo non posso più guidare. Cazzo. Male mi dovresti sentire, però. Cazzo, poi più scendi da lì e più mi senti forte. Ecco. Gada. Adesso torno, faccio la stessa via lì dietro. Oia. Ah, sei sempre forte qua, Yeah, comunque questo smitter, questo smitter è un po' lonfio, secondo me ha il difetto opposto dell'altro. Ti ricordi che mi arrivavi a Piazza Lissini, Santiago Zero, radio 5, no, radio 4. Cioè, quell'altro praticamente non mi fa vedere i segnali sotto il 9, questo invece non mi fa vedere i segnali sopra il 9. Cappa, è passato veloce che sarà dritto. Poi mi sa che quelli erano 48, io mi ricordo che 9.30, 9.30 non te lo sognava forzatamente. Quelli erano tutti scari. L'ago non sbatteva quasi tutto. Allora, l'hai riscontrato anche tu? Sì. Andava sul 30, però non andava oltre. Hai capito? Invece molte radio vanno oltre. Il problema è che qua più di 9 non sale, capito? Più di 9 non sale. Cappa. Alcune erano così, mi ricordo. Però bisogna vedere se ti metti vicino. Se hai provato a metterti vicino a qualcuno. Questo no, questo è arrivato ieri e non sono uscito per provarlo, cioè anzi in casa, vabbè, casa non fa, dovrei provare le macchine e fare un paragone. Comunque il migliore è sempre il Superstar, Connex, tutti quelli che hanno la scheda PT3006 hanno uno smitter migliore di questi. Questi sono cibo da mensa, però l'importante è che ricevi bene e che esci bene. Già funziona, già funziona. Il 3006, cazzo, insomma, è una bomba, eh. Io ho il 4000, ecco, con il 4000, ecco, che è sempre un superstar, con la forma, le funzioni, tutte quelle sono. Caffa. Però mi sa che la 48 c'ha più ricezione di quello là, eh. Di quale? Del Superstar, però va una cosa, mi te lo dico già in partenza. Cazzo, prende certi sbazzinate, certi colpi che molte volte rimane anche muto. Ma come sensibilità dei canali delle stazioni basse, guarda, Topolino, non te lo so dire. Poi io non ho antenna sopra, dovrei fare il confronto appena ho l'antenna su, così piazza un baracchino. Mentre c'è gente che parla, faccio le prove per vedere qual è più sensibile. Comunque il 48 prende i colpi e un volgare baracchino. Il Superstar è più sordo agli splatter, però sensibile in ricezione. Caffa, ma dovetemi spiegare una cosa, cioè, alla 48, alla 48 normale o BSX? No, non è BSX, questo ha i componenti classici. Il BSX invece ha quelli SMD. La luce qua è gialla, qua, no? Smitter giallo, luce gialla. Quella invece BSX ha la luce azzurra. Smitter e tutto il resto. No, lo vendono anche normale, lo vendono, è preciso identico. Mi sembra che lo vendano anche normale, se non mi ricordo male. Sono uguali, solo che uno è BSX. Sergio, che era la 48 normale, quello lì originale, cazzo, prende certe sbattulate che non viene bene a dire. Gli omologati così, almeno quelli di Intec, questi prendono colpi. Forse il Tornado, la 4S non prendeva tanti colpi perché era tipo il Superstar, quindi aveva la scheda PT, i comandi, no, il frontale era tutto uguale. Infatti era un bel apparato, peccato che non ce ne sono più, cioè uguale non c'è più, è un apparato degli anni 90, primi 90. Vabbè, no, tanto ce ne sono tanti da apparati belli adesso da prendere. L'importante è accaparrarsi, sai quali bombolini? Quelli che ancora hanno i componenti classici. Perché tutti i nuovi di adesso, il MAS 5000, SMB, quell'altro della Superstar, il 6009 in SMB, eccetera, eccetera. Cappa, io c'ho il Typhon, c'ho pure, lo conosci? Ecco. Un attimo, bombolini. Io c'ho il Typhon, lo conosci? Allora, il Typhon non me lo ricordo, ma mi sa che assomiglia sempre ai Superstar. Nero è? Sì, nero. A paillette. Sì. Ma sa che abbia la IPT3006 bell'apparato. Oh, Bomboli, io devo staccare qua. Un attimo che devo piazzare il rosmetro, un wattmetro e tutto. Sentiamo fra 4 minuti se ci fida, ce la faccio le mie prove. Piazzare le segni, sì. Qua, solito posto, centro, al centro. Minchia, non sai che mi arrivi meglio. Prova Marcolino. Ciao Luca, e beh. Prova, dai. Siamo a casa mattina a aprire lo sto cacchio di display. Mi sa che non è il suo, Non lo conosco, lo controllo, dai. Prova, fa un passaggio, prova. 1, 2, 3, attenzione Luca, Luca, se mi ascolti, cambio. Esce bene, di lusso, va bene, non è normale ovviamente, però esce bene, dai. Ok, ok. Prova con la roba là, io piazzo il rosmetro nel frattempo, dai. Andate. Ciao Luca. Antu, ma solo un attimo, devo provare una cosettina veloce, aspetta. Fai, no? Dai, non c'è fretta. Avanti. Bombolino, Bombolino, Bomboli. Guarda, ti stavo dicendo, ti sei fregato con le mani tue. Ma chi ce l'hai, Bombolino? Non te ce l'ho, ma lo sento una risatina sei tu. Vai, Bombolino. Vai. Chi c'era? Guarda, c'era Marco Condor e Luca. Cappa, attenzione Marco, Condor, amore. Certo, sto attaccando gli strumenti, fra un pochettino riprende. Cappa. Ebbene, oggi, a casa oggi. Cappa. Sei uscito? No, sono uscito a prendermi le cigarette, basta, mi ho trovato poi a Luca e... ho fatto una chiacchierata così che poi sono rientrato e domani mattina devo scendere giù a Bartavona per fare un lavoro e vediamo cosa ne esce fuori. Cappa, lavoro, un lavoretto hai trovato? Sì, un lavoretto di un paio di ore, capito, Mato? Vabbè, meglio di nulla. Meglio di nulla, cosa vuoi? Domani mattina alle 6 devo essere già a Bartavona. Ma ora è punteggiatura, cos'è? No, devo piazzare, devo fare una specie di casetta, capito? Dunque, e poi devo piazzare delle sedie, devo togliere le spalliere da una da queste qua e ripiazzarle alle altre parti, capito? Vabbè. Tanto non c'è niente, tanto non c'è nulla, se non ne approfitti così, questi lavoretti così che ti escono così sotto banco e a meno ci guadagna, a meno per le giure per le sigarette. Cappa, se tira a campà si tira. Cappa. Boia. Cazzo, sto vedendo che non mi fa gente buttare a mare a vero. Sto vedendo che stanno mettendo anche i bigliettini vicino attaccati ai muri e cose, di chiamarlo che fa tinteggiatura, che fa questo, che fa quest'altro. Su, arrivato a un certo punto bisogna fare anche questo, hai capito? Cercare di dare il curriculum alle persone, fare volantini, cose di giardinaggio, e bisogna stare attenti a tutto, perché non si può più andare avanti in questa maniera. Attaccato al muro, ai muri della strada, è proprio gente disperata che sta cercando almeno qualcosa per mangiare, cioè. Casino, e deve peggiorare pure la situazione, secondo cosa cazzo fanno. Cappa. Buonasera Leoncino, come va? Che situazione, cazzo. Giuseppe, mi ascolti? Avanti, Marcolino. Ciao Giuseppe, cos'è, Rognolo Lavoro, si stanno allargando troppo a quanto ho capito. Ho capito, Marco. Il lavoro, come va? Problemi? Lavoro, Marco. Lavoro non ce n'è, hai capito, dunque non ce n'è perché quello di Alghero ha pigliato per le culo e basta, hai capito? Mi ha detto che mi faceva fare guadagnare le notte, invece non era vero. Fanno sempre così, Giuseppe. Prima ti dicono che per una cosa, poi cominciano a farti fare tutto. Ti fanno fare pulizie, tutto quanto. E purtroppo, come stavo spiegando Antonio, tutto quanto guarda un casino. E tu dove sei, Marco? Sono a Piazzale Segni, al centro. Sto provando un apparato nuovo. Come ti arrivo di modulazione? 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3. La modulazione è buona, Marco, la modulazione è buona, il segnale, lo stesso è buono, ma arrivi 9-10 a picchi positivi. Che fa? Oh, sai, Marco, che è molto migliore di quello che c'era l'altro giorno, si sente un bel bene. Addirittura. Aspetta, l'altro giorno quale avevo? Il 400. Sai cos'è? Questo è un 48. L'altro è quello lì che ha il microfonino più piccolo, mezzo amplificato, ma l'altra cos'ha? Lungo lì, cos'ha l'altra? È metallica, è cupa, è nasale, cosa cambia? Prima di tutto il segnale, non so se stai usando, se è l'antenna diversa o se è dando sempre la stessa antenna, è molto migliore, poi anche la radio, sento benissimo. E diciamo che questa la radio un pochino aiutata, da ritoccata, l'altro ce l'ha originale, anche l'altro si può aumentare, ma non lo voglio fare perché sennò poi comincia, in SSB comincia ad andare un po' troppo saturo, capito? Scusate un attimo, attenzione Luca! Ehi, ho piazzato, poi non accende, invece non c'è batteria, bro. Non c'è batteria, qualche batteria di questa non le ho io. Ma senti dei suoni? Come? Oh Luca, ma senti dei suoni? Cioè si capisce che si accende oppure rimane spento tutto? Anche il suono? No, c'è batteria a zero, non accende più più. Comunque va bene, il display è suo. Oh Luca, e come fai a caricarla quella batteria, se non hai caricato la batteria? Il padrone ce l'ha. Ah, ma non è il tuo il telefono? No, negativo, non è mio, è mio amico. Visto. Ma dovresti farglielo caricare però, cioè dobbiamo accertare, perché io devo dare il voto a quel tipo. Se c'è qualche problema che lo display non va bene, poi gli darò il voto negativo, anzi no, prima glielo fai sostituire il display, o restituire i soldi, dopo gli do il voto. Ma fa dargli il voto, adesso se non ci carica la batteria, cosa ne so. Appena lo procuro, domani lo vedo, glielo dico di caricarlo. Non c'è batteria a zero, 0-0. Hai una modulazione superlativa, E questo viaggio, gap, senti come fa, gap, attenzione Marcolino Connor, gap. Bello, già vi sento su, binario 45. Avanti Giuseppe, riprendi. Già lo so, quella parecchio che c'è a Luca, viaggia parecchio, bello, però solo che... Allora. 4,50, è capito Marco lì? No, 4,50. No, aspetta. Spiegati meglio, dai. Ma non mi sentite stasera? Io non ti sento, hai capito come l'ho detto? Per comprare quell'apparecchio lì ci vogliono 450 euro. Viaggia a Roma. Allora, mi pare, sì, da Magic Phone, come si chiama in Sicilia? Delta Mike Store, mi pare che il prezzo sia quello, anche 500 euro, e ti fa l'Alan 48 base, no? Poi ci fa il doppio modulatore, mi pare, l'effetto Eco Colt, qualche watt in più, migliorie varie poi, no? In modo che esca chiaro chiaro. Attenzione Marco Condor, cambio! Avanti, Dondolinus. E allappagappa, dai. Adesso la ce l'ho anch'io, cambio! Cazzo, qua con le moto mi stanno facendo girare le orecchie, stanno passando i motorini. Sì, arrivi bene, ma anche tu quello hai, di chi è? Del fratello? Il mio fratello? Chi c'è Romeo? Questo qua è il Typhoon. Ah, questo è il Typhoon. Cacchio, esce anche bene. Devi avere un preampli, una roba del genere, boh. La scheda contro come quella di coso di Luca. Attenzione Marco Condor, cambio! Bello, bello, aspetta che faccio una prova. Adesso sono 10 cm dal microfono, com'è? Capibile ancora o bassa? No, allora va bene, ci abbasso, se non faccio casino. No, va abbastanza bene qua, dai. Sei già ritoccato qua, non dico molto, ma i watt sono 5 pieni, con picchi mi pare, anziché 4. Aspetta, fate 5, anche la modulazione è un pochino più toccata, ma cioè vabbè, scarica non ne fa dal cordone, no? Vediamo. No, no, va abbastanza bene, dai. Bene, bene, sono contento. Qui c'è anche Falchetto, avanti Falchetto. Ehi, io sono il più piccolo della frequenza. Ma fa che? Ma hai un innesco, senti. Ma fa che? Io, la FG, beh, normale, aspetta un attimo. Un attimino. Un secondino. Senti ancora innesco? No, adesso è di lusso, bella, con toni caldi. Perfetto. Va benissimo, la modulazione è perfetta. K. Vai in avanti che ti controllo il segnale. Un attimo, vai. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Io direi 9.30 e anche di più. Ma sei in zona, io sono a Piazza dei Segni. Beh, io sono di pronto a te. Lo credo, che te lo smettere incollato giù. Metto attenuo, ma è lo stesso a 9 e più. Cappa, cappa, sono di pronto all'ippodromo. All'ippodromo? Allora è un po' più lontano. Comunque la stazione è buona e si sente. È positivo. Il barrato di Vegere, e allora, maledetto? Beh, Falchettino, il volo Serpigliano fra un po'. Da poco ce ne andiamo a Nanna, si mettono un po' questi giubbatucci, per carità di Dio. Adolfo, meglio che ce ne fosse, hai capito, meglio che ce n'è il lavoro, non ci dobbiamo mai lamentare, mai. È meglio che vorrei visitare a travagliare al ciassone, il bombe. Ma tu, cazzo, non ti pensano correndo, oi, anche a capo solo ma fottino per le portate a tre, che a fine mese, a fine colo ci siano i cartucci. Ehi, vabbè, anche quello è vero, ma non si parla troppo di sviluppo di quello che si deve fare, è troppo esagerato, comunque. Si deve fare perché giustamente bisogna lavorare per cercare di andare avanti, se no ci avremmo andato tutto a quel paese, guarda. Ti capisco, lei. Ah, c'è domani, alle 6, non qua, alle 6, mi sveglia, alle 6 e mezza, c'è un quarto, mi devo trovare con il padrone di questo del locale, dobbiamo mettere a posto delle cose, io ho aperto a Mona e dunque andiamo, e tu non c'è altro e bisogna farlo, hai capito? Beh, sperando sempre che sia riconoscente con denaro, capito, soprattutto. Va bene, dai, riprendi a tu, Pagia. Io capo, lascia passare ancora. Oh, ora, passo così, va bene, dai. Purtroppo è un casino, poi stavo leggendo anche poco fa, non c'è un cazzo proprio. Già, noi che lavoriamo già, non c'è niente, stiamo vendendo poco, ti puoi immaginare? Ehi, fatto, fatto. È così, è così. Datemi due secondi, arrivo subito. Cappa. Oh, Giuseppe, stai uscendo bene anche tu, eh? Limpido, limpido, sembra la tua voce. Che radio è? Io c'ho le cose, c'ho, ma c'ho sempre quello là, il Galas. Buono. Non è che puoi fare una prova in FM? Oh, non ho capito. Non è che puoi fare una prova in FM? FM, aspetta un attimo. Vai. Se vai copiando il Condor. Attento, se copi qua qualchetto. Come dici, cambio? Lo copro. Yeah. Oh, Giuseppe, com'è la radio? Accettabile o strappata? Buona, buona, Marco, buona. Ottima per la truppa. 9.20, appicchi positivi qua, cambio. Catta 9.20, si smettere come l'altro. Giuseppe non arriva a 7, lui mi sente 9.20. E sono passato da un apparato che praticamente era senza smitter, funzionante, e ne un altro che era lo smitter nelle stesse condizioni. Beh, dai, un indicativo per capire se uno è vicino o lontano. Però, per quello che l'ho pagato anda bene. È perfetto, dai. Non ci possiamo lamentare quando l'apparato va bene, dai. Cazzo, non c'è andato in FM, mi. E chi? Coso, Leoncino. Sì, ha risposto. Non c'era in AM, cazzo. Antonio, guarda che sono in FM io, Vai, prova a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta, cazzo, se tu sei in AM, perché io in AM ti sento benissimo. Sono in FM, sono in FM, a tu. Fermo, tu, è in FM, ho fatto la prova. Minchia, cazzo. E come mai io lo sento bene in AM? Con certi apparati lo fa, sente, si capisce lo stesso, dipende dall'apparato. Non ti preoccupare, lo fa anche con l'altro. Ma signori, io vi saluto, vi auguro un buon 144, non ve lo fate, un buon tutto, qualche per chiudere la trasmissione. A domani se coincide, ciao, vai passate una buona serata, ciao. Tanto, buonanotte, e un buon 144, una buona giornata per domani, dai. Ciao. Ciao Falchetto, anche da parte mia, buonanotte e alle prossime. Ciao Condo, anche se buonanotte, ciao a tutti. Cappa, ciao. C'è qualcosa che non va, perché... Ma capi perché è sposato, Leonci? No, niente. Al punto, Eia. Che strana cosa, cazzo, ho girato il caliper e ti sento bene. Aio in M, AM, aio. Eia. Cada. Antonio. Eia. Poi? Io ci sei. Guarda vecchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso ti sento bene, ma l'eco leggero, eh? Leggero sì. E già va bene così, dai. Cappa, Marco. E io Giuseppe. E io, come ti arrivo io lì a Piazza dei Segni? Dammi un controllo. Qua dice Santiago 7, radio 5. Conta che questo smitter io non so se sia preciso o no. Mi serve un apparato normale, con uno smitter però serio. Servirebbe un HF per per tararlo, perché così la prova non va. Comunque 7 radio 5. Scappa, va bene dai. Oh, signori, io vi saluto perché sono ci sentiamo domani quando rientro dal trabacco, dai. Se ci siete, fatevi sapere, fatevi sentire. Quanto tu lo sai, no? Una bassa, quando è, mi fai un colpo di abbassa, capito? Non ti preoccupare di oggi, dai. No, non deve avere problemi. Ok, Marco, ma io ne ho segnale. Santiago 6, radio 5. E dai, già abbastanza bene. Ciao, le oggi, dai. Ce la risentiamo. Ciao, ciao, buonanotte a tutti, dai. Buonanotte. Papà, lo sai, arrivi bene. Certo, mi dà la sensazione che io arrivo meglio quella radio. Beh, di modulazione, sì, mi pare di sì. Guarda che i watt sono solo 5 watt, mentre l'altro ha 10 watt. Vasco, ma l'antenna è sempre la stessa, Sempre la stessa, e le stazionarie sono, aspetta, 1 e 2 qua, perché io ce l'ho tarato molto verso i canali alti, cioè 1 e 4 sull'1 mi pare, e poi a salire insomma si abbassano le stazionarie. Papà, strano cazzo. Questo o perché hai queste stazionarie non riesci a sfruttare bene il watt, o c'è qualcosa che non va. Questo io ti sento molto meglio da quel punto che sei, e non a paragone. No, non riesco a capire, l'altro giorno non ti sentivo così bene. Ecco, sono tornato, Allora, io anche adesso mi ho 1 e 2, ma 1 e 2 è ridicolo. 1 e 2, 1,2 è ridicolo, non c'è nemmeno da contarlo. Ho controllato sul 40, con 5 watt, sull'1 5 watt è 1 e 3, quindi preoccupate quando arriva a 2 a 1. Yeah. Ma sicuramente quando gli dai più watt, e lì comincia il problema, hai capito? No, non riesci a sfruttare tutta la potenza, secondo me, perché con questo io ti sento molto, molto, molto meglio. Ehi, l'ho lì, te l'ho detto, è la modulazione. Questo è un 48, sicuramente, questo va 12 volte. Aspetta un po'. Eccomi qua. No, dicevo che questa è la radio che hanno già ritoccato, l'hanno già migliorata, capito? L'altra è originale, la radio, la modulazione. E gli hanno aperto il coso dell'EG, sicuramente. Io l'altro non lo apro, non lo voglio aprire perché è in garanzia, mi pare ancora. Quando la perderà la garanzia, lo lascerò lo stesso chiuso, non lo voglio toccare. Non sia che peggiori tutto. Che cazzo, l'unica cosa che li fanno, gli aprono le LC, esce benissimo, ma io lo so che è così, quello se lo modifichi diventa una cosa micidiale quel baracchino lì. Questo lo puoi fare quasi come quello di Luca, anche se qua, cazzo quanto sta correndo. Facendo il coglione, eccetera. Cazzo, impennato, a manetta. Già arrivi se strampa, ciu. Sempre le teste di cazzo fanno lì. Bene. Non vedo un'anima, lo baracchino, tranne noi. C'è molto vuoto in questi giorni, ma adesso succede come era prima, perché se ne vanno tutti dalla frequenza e rimane vuoto. Vai. Ciao, buonanotte. Ehi, abbiamo parlato in due, dai. Comunque ho capito, dai. Ci sentiamo, Bombolì, buonanotte anche a te. Anch'io adesso vado via, la prova l'ho fatta. Me ne vado a coricarmi, dai. buonanotte e alla prossima, ciao. Ciao, ciao, buonanotte, dai. Marco, cambio. Cambio. Cambio. Gabba, ma non mi viene, che non ho la voce rauca, non mi viene, c'è un po' rauca, ma non tanto da farlo. Ok, buonanotte, va? Via gamba, dai. Ma piuttosto, Luca, Luca, ci sei ancora all'ascolto? Attenzione, Luca, Luca, se sei all'ascolto, non mi ricordo se è spento oppure no. Ma quando? Uè, indovina. Giangi doppio rum. No, Marcoli, Marcoli. Rientro. Dimmi, rientro, no, sono uscito a provare un apparato e stavo parlando un po' con Bombolino, con Giuseppe Leoncino e c'era anche Falchetto, là. Come mi ascolti, Gianni? 1, 2, 3. Chiarissimo. Chiarissimo, questo è un Alan 48. Normale. Cioè BSX normale, no, normale, normale. No, è il microfono suo. Allora, questa è seconda mano. Il microfono, sì, sì, è quello Precision Series con la scritta Midland sotto. Questo microfono non ce l'avevo mai avuto, solo i Midland lo usavano. Di solito sono nasini quei microfoni, invece a te ti va bene. Ma già, questo l'hanno già un po' customizzato. La modulazione è aperta, poi ha 5 watt pieni contro 4. 400 canali per plus, eh sì, la verità sì, Alan, no, che plus, che plus, questo si chiama esattamente Alan 48 Excel Multi e i componenti sono classici. Ho capito che c'è il plus. Aspetta, già, non ti sento che c'è, sono questi coglioni con le moto. Ho detto io c'ho il plus 48 plus multi, quello con lo smetter, fattore, con lo smitter a LED, no, a LCD. Sì. Questo l'ho pagato 75 euro e c'era scritto in perfettissime condizioni. Da Magifone l'ho preso, no, un usato che gli è entrato. Comunque vedo che come canali è già ben messo. Poi c'è quelle cose interessanti tipo lo scanner, no, metti lo squelch, fai scanner e trova le stazioni, MFM, poi dual watch e 5 canali di memoria anche, puoi andare direttamente da un canale all'altro senza far girare tutti i canali. Come il mio. Via. Oh, yeah. Nuovo costava da IL Elettronica, questo costa 160 euro. Gli altri lo vendevano, mi pare, 145, a me piaceva, solo che a quel prezzo nuovo non l'avrei mai comprato. Ah, una cosa già, con il nuovo non ti danno mica il microfono del 48 vero, no? Ti danno quel microfonino piccolo, saponetta, brutto, col forellino per parlare, no? No, no, ma mi hanno dato quello normale. Io di quei microfoni avrò 4 o 5. Ah, naturalmente questo è il microfono Midland e quelli Precision Series, però in più per questo apparato ha il selettore di tasti sopra, più e meno. Il lap down ce l'ho anche io così. Questo per non portare l'FM500 quando voglio quello, un baracchinetto piccolo normale, senza SSB va bene questo. Bene, bene, bene. Tutto va bene, va bene. A quello che dice il CTE come lineare. Aspetta che guardo un attimo una cosa. Dimmi di associarlo a un CTE come lineare. Capo. Ma qua fa come l'altra volta, eh. Qua va, fa un rientro di RF. La base magnetica non ce la fa. Oppure i cavi troppo lunghi, perché gli apparati che uso hanno tutti il cavo da un metro e mezzo quasi. Magari fa rientro dal capo. E quelle sono le cose mie, ho la base magnetica, il cavo oppure usano i Zoku, il cavo stesso della batteria in lunghezza può fare, può avere niente di DRF. Ma forse è la massa che manca. Fai un passaggio anche molto che controlla il segnale attenuato. Ma è strano. attenuato o 4, quindi normale 5, 6, 7, 8, 9, 9 sarebbe. E praticamente questo Smitter mi sembra abbastanza tirchio, non come l'altro, perché Bombolino con l'Albrecht mi arriva a 0, radio 5, e qua mi arriva Santiago 6 o 7, radio 5, però è ancora tirchio questo, me ne sono accorto. Voi di solito arrivate fondo, tutti quanti fondo scala. Magari era troppo generoso l'altro. E sa cos'è già? Quello dell'Albrecht è a LCD, cioè segna il 9 e poi più 30. Tutti quelli sotto il 9 drasticamente li attenua i segnali solo sullo Smitter e non in ricezione. Quindi cacchio, inutile, non trovo uno Smitter buono. Ci vuole un bel 140 in macchina, altro che. Me ne vendono uno nuovo da Megifon, 320 euro, condizioni perfette. E poi bisogna vedere come ti arriva. Adesso come ti sta arrivando? Aspetta che attenua. 1, 2, 3, prova. Allora, attenuato Santiago 8, siccome attenua di 5 Santiago, quindi 8, 9, 9, 5, 9, 10, 9, 15, 9, 20, 9, 20. Che per questo è molto, per questo mi smettere molto. Comunque già va bene, non è interessante questo. Guarda se a 10 cm com'è, 1, 2, 3, attenzione Gianni. 10 cm dal mic. Si sente bene. Vabbè, da. Ah, poi una cosa, me l'ha dato garantito, 12 mesi di garanzia. Bene, va bene. Poi c'è un bel canale, cazzo. Parte dai 25 e tanti, finisce ai 30 MHz punto 100. È stato modificato. Ehi, in realtà l'avrei voluto omologato, ma cosa me ne frega, tanto poi il vero omologato ce l'ho per casa, no? In caso di controlli. Va bene. Beh, ti saluto Marco, vado a letto. Ciao, buonanotte. Ehi, buonanotte già, tanto vedo che sono le 11:30. Comunque anche a Piazza dei Segni non c'è un gran movimento, c'è un po' trovati così, con gli stereo alzati. Alla prossima, da. Speriamo che non salga troppo la temperatura domani e dopodomani, se no altro che mare. Ciu. Va bene, ci sentiamo, buonanotte. Ciao già, buonanotte, alle prossime. Uè. Ah Luca, qua sei. Gli altri se ne sono tutti andati. Sono rimasto a fare delle misurazioni, dimmi. No, niente. Col disco l'ho piazzato, sono andato al tipo. C'è un amico, no? Detto carica la batteria, non provi, ma dovrebbe andare comunque, se non va poi ti farò sapere. Cappa. Ascolta, ma con il caricabatterie non si può accendere subito per vedere com'è? Ma se non le ho, come l'ha lasciato? Ah, non te l'ha lasciato? Tira indietro. Vabbè, adesso però lo provo, lo carica, se va bene, se no si arrangia. Il display è nuovo. Lo so, però sai, anche se è nuovo potrebbe essere un funzionante per difetti di fabbrica, eccetera. Tanto quello ne è un bel. Ce lo facciamo cambiare. Comunque dai, mi farei sapere. Sto guardando le stazionarie piuttosto. Praticamente ho 1,3 sull'1 e 1,3 sul canale 90 praticamente. Quindi questa antenna mi tiene una larghezza di banda a 90 canali con 1,3. In realtà puoi andare anche oltre. Io penso 100 me le copra da giù a su. Buono, va benissimo allora. Sempre se il... come si chiama? Quel rosmetro funzioni bene. Sì. L'ho dovuto comprare perché l'altro era un mini rosmetro della... una marca nuova, era allucinante. Dava segnalazioni falsate. Questo è ZG, questo è il... quello da macchine, TM999ZG, che fa anche da codatore, quindi in realtà potrei andare anche su canali molto più alti e più bassi e me lo accorgo. Passate un attimo, Marco, li arrivo, aspetta, c'ho devo fare una cosettina qua a casa. Eia, fai. Ciu. se sei all'ascolto. Attento Luca, ci sei? Attento Luca, sei all'ascolto.